bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, el pene. No, a mí me gusta el pene. Al Mauri le gusta el pene.